bless you, man. Brother Dwight Bonham, breaking a winning zone. Breaking a winning zone, and I'm breaking a winning zone. Yeah. Just so.

E ragazzi di Trovo, ringraziamo gli stronzi di Trovo Baccano che si fanno dei saldi che quest'anno. Niente. Dai, tutti insieme, tutti insieme. Noi facciamo delle canzoni popolari. Sono due. e spero il duro per me. Thank you. Thank you. Questo qua? Thank you. io faccio una vuota così, sì. Faccio... inizio dal primo set ottavo. Comunque me ne conto, te la conto io così. Sì, scusa. Un, due, un, due, un, due, tre. Fai.